Sì, che adesso ci fa sentire anche la sua voce. Buona serata a tutti, ciao. Senti che bella voce radiofonica che c'ha pure, eh? Ma insomma. A me piace. Veramente. Eh? Una gran gnocca. Eccolo. In radio sì. Dal vivo francamente non mi ricordo, ci siamo visti forse nel 2004 tipo. Ah, però sì, ci siamo già visti. Sai sì. Che Valeria mi ha confidato di essere una nostra ascoltatrice? Ma dai. Sì, sapeva tutto, sapeva che avevamo anche la rubrica delle menzioni. Ma certo, mi divertite quando sono in laboratorio da sola a delirare per le mie e mi fate ridere. No? Che spettacolo. Che spettacolo, tra un po' ti metti a piangere, ma sei... veramente, sto commuovendo. Non lo so, non hai fatto la tua oretta e mezza in tangenziale, mi sembri un pochino, non lo so, deperito, triste, vabbè dai. Sì. Ho bisogno di tornare, aspetta che adesso parto e fra un'ora e mezza arrivo, ci siete ancora? Ma aspetta un attimo, lo sai, il 45 giri non so dove cercarlo, qui non c'è. Ah, okay. Invece il brano che mi avevi chiesto me lo sono dimenticato. Però c'ho Lolli. Ah, ecco Lolli. Approfitto per salutare Riccardo Lolli e invitarlo a fare il tuo co-conduttore quando vuole. Gliel'ho provato a chiedere, ma lui dice che per 4 di fila non. Non. Comunque. Vabbè, 4 di fila, uno magari, due, dai. Caro Pasc, prima per salutarci così e farti rimanere un attimo nel vivo del coxo, io ti inviterei a fare tu le nostre le prime, avviare tu il dialogo con Valeria facendole delle domande. Ah, ho una domanda subito, ma perché si chiama Le Giraffe? Ah, è una lunga storia, cioè la ripeto sempre, però ti dirò che l'ho svelata pochissimo tempo fa. Nel 92, quando sono tornata dagli Stati Uniti, sono stata invitata da Maira Orfei, quindi non ridete. Ho già riso, scusami. Allora, mio caro amico, che adesso non c'è più, fece il compleanno dentro al circo, perché era un caro amico di Maira Orfei, e facemmo allora già nel 92 questo DJ set avanguardistico dentro al circo con questa festa che non vi dico come finì, però insomma tornando dal Centro America ero molto triste nel vedere questi animali in cattività, allora ho chiesto a Moira di andare dietro a vedermeli per bene. Mi eclisso dalla festa e c'era un rinoceronte enorme, non avevo mai visto questo rinoceronte. Solamente questa scenografia praticamente molto underground, perché comunque il circo è sempre a Stalingrado, quindi si vede sopra tangenziale, quindi tra l'urbano e vedersi un rinoceronte sono stato un attimo spaesata. A un certo punto stava andando giù il sole, perché era tipo 8 e mezza di sera, cose del genere, vedo un'ombra sul mio viso, poi mi vedo praticamente spostare la testa, mi sento spostare la testa da qualcosa e praticamente dall'alto è venuta giù questa giraffa che a fare la mia conoscenza e mi ha spostato la testa col muso. Quindi io mentre ero in contemplazione del rinoceronte, diciamo, una giraffa dall'alto e io ho iniziato a fargli grattini in mezzo alle cornine, siamo diventate amiche. Però da allora, ti giuro che è vero, mi è rimasto il flash proprio della giraffa. Allora, che tu ti senti la presenza della giraffa sopra la testa, che può... Io in contemplazione del rinoceronte, la giraffa che viene a fare la mia conoscenza, io tristissima sono diventata felice, poi nel 98 aperto le giraffe da lì. Ok, Pasquini, ti sei guadagnato la giraffa d'oro per la domanda più congeniale che io non avrei fatto a Valeria, perciò preparati le chicche perché sarai sempre interpellato nelle prossime puntate e intanto ti sei guadagnato la buona uscita, ti metto pure lo stacchetto della menzione. Ciao Pasc. Ciao. Ciao, un bacio. Ciao. Non è ancora chiuso, dai che mi piace il tutù. Ah sì, ti metto il tutù. Aspetta che sono appena entrato in casa. Nicola, vuoi salutare Coxo Spaziale? Dato che ci siamo. No. Se ne frega. Vabbè, la ciao, gioventù. Ciao. Ciao. Ecco, questo mi piace tanto. E invece torniamo noi. Ma perché certo. prima abbiamo una telefonata, cioè delle telefoniche ricchissime stasera, una puntata che finirà subito. E intanto, quindi, Valeria Sacenti, Valeria delle Giraffe, perché in realtà come possiamo presentare un pochino il tuo progetto a chi non avesse ancora avuto la fortuna di incrociarti in città? Beh, di cosa si occupa Valeria? Sicuramente dalla mia vita personale e professionale è tutto un casino. Comunque, le giraffe è sempre stato, penso, in questi ultimi 20 anni, perché ormai tocco quasi 20 anni, un contenitore di idee. Ho sempre cercato di racchiudere tutto. Venendo dal mondo dell'arte, poi ovviamente anche dal mondo dell'abbigliamento, ho unito tutti i progetti. Sono stata molto fortunata perché praticamente ho aperto nel momento clou dove stava esplodendo tutto, insomma era già esploso tutto, perché nel 98 alcune cose stavano quasi finendo. Quindi, per i pochi che ancora non sono pratici di Bologna o che sono appena arrivati o che fanno fatti altri giri, le Giraffe è anche un luogo fisico che è in via Moline 5B. È ancora Moline quella. Sì. Dove abbiamo i tuoi pezzi unici da collezione esposti, ed è anche un luogo dove tu hai creato mostre, promosso creatività e sì, coesione. Sì, ho sempre cercato, certo. Diciamo che venendo dagli Stati Uniti, il concept un attimo dell'handmade, del pezzo unico, l'avevo già visto lì, non è che mi sono inventata niente. Ovviamente ho avuto la fortuna e il privilegio di essere stata la prima, perché avevo già intravisto un po' il futuro. È ovvio che, sai, adesso sta andando molto di moda il fatto che tutti facciano autoproduzione. Questo, anzi, mi dà ragione sul fatto di essere stata un po' la prima, di averci visto giusto. L'unica cosa che mi dà un po' fastidio adesso del mondo delle scuole, diciamo, del fashion design, cose del genere, è che inculcano un po' a questi ragazzi il discorso troppo fashion e poco handmade. Cioè, io anche quando cerco di interagire con le scuole superiori, oppure molte volte interagisco con le Rubiani, che diciamo è la scuola superiore, non l'università, però cerco sempre di trasmettere il fatto che bisogna essere umili e soprattutto artigiani, perché noi siamo eccelsi all'estero e siamo conosciuti per l'artigianato. Però lo stiamo lasciando per il fashion. Eh sì, questo è il punto. Però, sai, tutto va bene, già il fatto che si sia arrivata l'autoproduzione e tutti si aprono i loro spazi è già una grossissima conquista, credo. E comunque diciamo che se qui a Bologna poi la situazione sta un po' cambiando ed effettivamente questa cosa dell'handmade, del pezzo unico, sta cominciando ne ho visti di progettini sartoriali, negozietti, cioè, in cui offrono proprio questa cosa, e sta riprendendo piede, secondo me c'è anche una buona dose di spinta da far di Valeria, che è arrivata e ha cominciato a farlo da tempo ed è diventata anche un po' un'istituzione. Però Valeria, oltre ad essere questo, è anche uno spirito irrequieto che continua a cambiare. Ovvio, come tutti i creativi. Ed siamo, infatti, bombe H. Siamo qui in questa puntata, la 115esima di Coxo Spaziale su Radio Città Fujiko, per parlare del suo prossimo format, ma solo dopo il primo brano. Che Grand Traveler's Jacket, per rimanere in tema abbigliamento, va bene? Certo. Deep deepest embrace of summertime. And now in the deepest embrace of summertime, only layers and layers of onion skin. Only layers and layers of onion skin. Only layers and layers of onion skin. Only layers and layers of onion skin. Ti è piaciuto? Ma certo, ovvio. Sai che è il mio cantante preferito? Beh, siamo in lunghetta d'onda, dai. Però di solito cambia un sacco di generi. Comunque, siamo qui con Valeria Sacenti, o Valeria delle Giraffe. Meglio Valeria delle Giraffe, odio il mio cognome, ma va bene, dai. A me piace. Tra l'altro è anche lo stesso cognome di un grande danzatore a cui Bologna ha dato i natali. Certo, Giacomo. Giacomo Sacenti, dove sei? Ritorna. Ritornerai qui al Coxo, certo, insieme a Valeria, tua cugina. Certo. Ho sentito ieri e l'ha promesso, giura. Va bene, quindi abbiamo annunciato che Valeria sta per partire con un nuovo format. Sì. Che, come al suo solito, è ben radicata nel contesto urbano della città, perché in realtà tu Bologna nel corso degli anni l'hai un po' ribaltata, riaggiustata. Beh, sai, diciamo che mi sono persa dal mondo dei rave, sono passata al link a livello tutti i centri sociali, tutti i centri culturali. Penso che di aver collaborato un po' con tutti, sempre cercando di essere apolitica, perché non mi interessa l'arte, anche se l'arte è politica, però ho sempre cercato di essere qualcos'altro. E adesso, insomma, mi sento in trasformazione, anche perché sto trasformando il progetto Le Giraffe in due progetti ben distinti. Uno è il Garage Sale, ed è un contenitore di idee dove io metterò dentro tutto il mio mondo, che è creato da tutto ciò che per me è arte, ma l'arte può essere tutto, soprattutto in ogni evento che ho cercato di fare, ho sempre cercato di mettere dalla musica alle performance, perché io vengo dalle performance, però adesso come adesso, che ho la possibilità di dare la possibilità ad altri, mi sono allargata. E in questo caso c'è una realtà bolognese che, fra l'altro, di cui forse una rappresentante è proprio qui e ci sta ascoltando. Certo. Ciao, buona serata a tutti. Sì, ciao Simo. Ciao. E questa realtà Tadan si chiama Dinamo ed è la Velostazione. Ho detto bene? Oppure l'associazione, sì, Dinamo ha creato la Velostazione, è così? No, l'associazione è Salva i Ciclisti Bologna che ha creato Dinamo la Velostazione. Ok, ciao, allora Simo. Era andata bene la prima. sì, benissimo. E infatti questo format Garage Sale avrà un evento di debutto che avrà luogo proprio negli spazi di Dinamo. Sì, infatti, insomma, siamo molto contenti con Valeria Sacenti. Sono già, insomma, un paio d'anni che pensiamo di fare una cosa grande insieme, perché anche se ci occupiamo di cose diverse, noi di mobilità, lei di creatività, in qualche modo c'è una passione comune, c'è un'intesa, e quindi adesso che, insomma, c'è uno spazio veramente adatto a farla sbizzarrire in tutte le sue idee, visto che la Velostazione, per chi l'ha già vista, siamo sotto la terrazza della Montagnola, un locale storico, 15 metri di altezza, grandi colonne, una grande prospettiva architettonica quasi che sembra che richiama un po' quella di un acquedotto romano, per cui credo che sia il contesto giusto per ospitare una cosa così particolare. Certo, Simo, spazio grande, mi avete fatto pensare in grande, lo sai, eh? Ma nello specifico da dove si entra? Da via Indipendenza 71 / Z, quindi okay, proprio su via Indipendenza alla fine del portico. Bene. Sostanzialmente siamo di fronte a Porta Galliera, di fronte a Piazza 20 Settembre. E vogliamo parlare un po' di questo evento che si terrà il 7 novembre? Penso che Valeria sia la persona più adatta a parlarne, perché insomma noi la ospitiamo e ringrazio tutta l'associazione tecnico, però insomma lei è la mente, per noi è importante perché comunque si tratta dell'evento di chiusura della prima rassegna di eventi che abbiamo organizzato dall'inaugurazione dal 25 settembre proprio al 7 novembre abbiamo creato Dynamatic, che è questo sistema di eventi legati alla musica, agli scambi, alla formazione, quelli che sono i nostri temi, la mobilità, radici, ma anche la musica, l'arte, la cultura. Per cui chiudere con questo evento per noi è significativo. Ci prepariamo all'autunno, inverno, e lo facciamo bene. Ok. Beh, comunque Simona, sicuramente mi avete dato una possibilità enorme, cioè quando ne abbiamo iniziato a parlare a maggio io non pensavo che diventasse una cosa così mastodontica. Poi ovviamente con il carattere che ho tu mi hai dato carta bianca e mi sono allargata molto volentieri, anche perché lo spazio veramente è a qualsiasi creativo ti apre la mente, perché è talmente grande, talmente bello, talmente imponente che non puoi altro che pensare di metterci dentro altre idee, altri contenitori. Quindi ho cercato di strutturare il Gara Sale, che è il nuovo format, proprio per metterci dentro tutti gli artisti. E ho questa volta diciamo che è nato tutto da due libri che io sto seguendo, uno che è La Cura di Simona Ramille, l'altro Made in Bo di Silvia Santachiara e Silvia Gaiani, che racchiude un po' tutti i fashion designer, ma neanche i fashion designer, tutti i designer bolognesi, quelli che orbitano. Quindi mancava anche una guida su chi ha laboratorio, chi fa handmade, chi fa ricostruzione, la costumizzazione anche del modernariato. Siamo tante meteore a Bologna, però non collegate tra di noi. Difatti anche in arte fiera è troppo dispersivo, non c'è un collegamento, un catalizzatore. E comunque questa guida che è appena uscita sta funzionando. Made in Bo, dici? Made in Bo. Mm. E io mi sono attaccata alla guida e a un libro che parla di come la mente si ammala, anzi il corpo si ammala attraverso la mente malata, oppure anche la depressione. E io credo che chi sa muovere le mani è sempre collegato con qualcosa di superiore. La mente collega le mani, le mani alla mente, insomma un creativo comunque ha una mente open mind per forza, se no non è un creativo. Questo è il punto. Quindi comunque tutto dentro la mia testa è nato. Prima, quando ho visto lo spazio, Simona mi ha dato completamente la carta bianca su questo spazio apocalittico. Dopodiché ho iniziato a concepire questo spazio come una galleria d'arte del futuro, perché comunque questo spazio ci credo talmente tanto che cambierà il visuale di Bologna, la visuale, il modo di concepire arte, anche perché tutti i grossi centri culturali, senza fare nomi anche se li conosciamo tutti, hanno dato grandi possibilità, poi sono diventate qualcos'altro. E invece questo spazio, se rimane una chicca e viene trattato con i guanti di velluto, come spero io di fare il set, spero, poi mi sgriderete dopo, però credo che anche tutte le persone che fanno eventi e si occupano del mondo del divertimentificio serale si devono approcciare a questo spazio con i guanti di velluto, perché va preservato. Cosa ne dici, Simona? Ma guarda, il nostro spazio appunto l'abbiamo voluto chiamare Dinamo perché per noi la cosa fondamentale è il movimento, cioè la capacità di mettere in circolo delle energie e di dare delle occasioni e soprattutto di non, diciamo, sedersi su un'identità data. Chiaramente il nostro primo obiettivo è quello di dare dei servizi, perché siamo nati per questo, quindi parcheggiamo le bici delle persone che ne hanno bisogno perché vanno a prendere il treno per lavorare o lavorano a Bologna e quindi vengono qui col treno, poi hanno bisogno di un mezzo per spostarsi in città. Questa è la nostra funzione primaria, infatti siamo aperti dalle 6 del mattino alle 10 di sera con questo servizio, e poi c'è la riparazione bici, c'è il noleggio per i turisti che sta piacendo molto perché mancava un noleggio bici vicino alla stazione. Sono sempre di più le persone che vengono da tutta Europa, da tutto il mondo a visitare la nostra città e che vogliono comunque conoscerla come sono abituati a fare nel proprio paese, quindi in bici. Per cui questa è la nostra funzione primaria. Ci teniamo, insomma, che sia sempre al centro della nostra attenzione. Dopodiché chiaramente lo spazio è molto grande ed è anche importante che il mondo della bici non si chiude in se stesso, gli appassionati non finiscano per ritrovarsi sempre tra di loro, e quindi abbiamo messo a disposizione alcuni momenti e alcuni spazi del Pincio anche per eventi di questo tipo. Siamo qui per far evolvere la città, quindi da tutti i punti di vista, per cui energia e movimento. Beh, io direi che Simona e Dinamo avete tutto il plauso possibile del Coxo, che noi siamo Coxo spaziale, e ti ringraziamo per il contributo e adesso magari entriamo più invece nello specifico della programmazione performativa del 7. Bene, grazie a tutti, buon lavoro Simona, grazie. Ciao. Performance, ricerca, teatro. Ecco, carino. Comunque, esatto, guarda, ha fatto la prefazione giusta, anche perché, diciamo, Garassè, il contenitore di idee. Allora, le giraffe, parlo in terza persona, ma sono sempre io che rompo le palle in qualche modo. Diciamo, mi nascondo dietro il mio cognome orrendo, dietro il mio marchio, che non è un marchio, però sono sempre io. Comunque, sto cercando di creare come format nuovo Garassel per dare una piccola possibilità, e spero anzi che diventi grande, a tutte le persone che io mi sto andando a scegliere con molta cautela, perché anche il Garassel non voglio che diventi il mercatino, deve essere comunque un'esposizione d'alto livello. Anche i design che ho scelto dentro, a parte che facciano parte della guida Made in Bo, non è che poi la includerò solo all'interno di questo libro, cioè chiunque se lo merita può contattarmi per i prossimi numeri di Garassel e essere inserito, però sarò molto selettiva nella selezione sia degli artisti che delle persone che producono e vogliono far conoscere il loro prodotto, perché di prodotto si parla. Ok, quindi. Valeria, questo è un aspetto molto interessante, chiaro, nitido, che quindi insomma sia la ricerca, però anche se viene dal basso non debba abbassare la qualità, e questo secondo me è una cosa molto importante. Certo, senza denigrare nessun creativo, però ovviamente io ho un gusto tutto mio, non è che perché a me non piaccia un certo prodotto, questo prodotto non funzioni. Però all'interno di questa situazione che io sto cercando di creare itinerante, per ora siamo ospiti alla Dinamo per il 7, voglio cercare comunque di dare un prodotto molto underground e molto con poca connotazione locale. Deve essere un prodotto e un evento che potrebbe trovarsi in qualsiasi posto al mondo e deve stare a livello in qualsiasi posto. Allora, per come ti conosco sono abbastanza sicura che su questo non ci saranno problemi. Per il momento invece vediamo se questo creativo locale potrebbe essere inserito nel ventaglio dei tuoi collaboratori. Ti presento Riccardo Lolli e questa è la 19ª puntata della rubrica 2 minuti di Lolli. I 2 minuti di Lolli hanno una durata percepita variabile. Le piazze, le strade, ovunque casa tua. Strani baldacchini magnetici sulle case, sulle chiese, ti cercano, ti chiamano, ti postano l'ira di Dio. Di merda impediscono di amare e di proliferare. Un giorno il tuo pesce sarà della consistenza dello slime o della trekking light. Telefonati da solo e ditti dove credi di andare a parare. Telefonati da solo, consola le tue membra magnifiche. etichè. Chiamerai l'amico che in questo frangente può aiutare con il tuo cellulare, ma non risponderà perché si trova in zona che non prende, ma non se la prende. Guarda che Telecom Italia, informazione gratuita. Il numero da lei selezionato è strano. Già finito? Sì, che stiamo bene, dai. Sì, ce la spassiamo, certo. Ce la spassiamo. Qui è la 115ª puntata di Coxo Spaziale su Radio Città Fujiko insieme a Valeria delle Giraffe per un sacco di novità. E anche se rimaniamo comunque legati alle tradizioni, questa è l'ultima puntata del Coxo Spaziale vecchia serie. Dalla prossima ci sarà diciamo il Coxo Spaziale 2.0 in attesa del ritorno di Pasquini, però una cosa rimane, che è questa. Forse. Ah no, no, sì, sì, sì. L'angolo della menzione. E tu, Valeria, che sei una nostra ascoltatrice, sai cosa succede adesso, ma no? Certo. Ovvero che io leggo che venerdì 30, ovvero domani, alle 21 c'è The Dark Side of the Music al Teatro Navile, che è uno spettacolo format sui retroscena della musica italiana, da un'idea di Roberta Giallo, Marco Sbarbati e Paolo Piermattei, con la partecipazione di Silvia Salerno e molti altri ospiti, perché è un format anche questo che insomma è un format come Roberta Giallo, che sei qui, che insomma intanto così... Ciao a tutti, ciao al Coxo, a tutti quanti, a Valeria delle Giraffe, ciao Roberta, a Pedra. È un format episodico, nel senso che ci saranno diverse puntate, spettacolo, nelle quali insomma ci saranno di volta in volta nuove storie, nuovi personaggi, nuove canzoni. È come se fosse uno show televisivo all'interno del quale noi proponiamo talenti, pubblicità, consigli, e tutto questo è stato possibile grazie insomma alla partecipazione di altri cantautori come me, che volevamo raccontare un po' di noi, un po' di ciò che si lega alla musica, no? Appunto in retroscena però della musica, lo spazio invisibile. E io ho visto, siccome ho la fortuna di conoscere abbastanza bene Roberta, e che oltre ad essere cantante è anche poliedrica, performativa, e insomma poi la scopriremo anche meglio, perché oltre ad essere queste cose qui, sarà anche dalla prossima puntata la prima, inaugurerà la serie delle co-conduzioni mensili, sarà la co-conduttrice di Coxo per le puntate di novembre. E io sono onorato ovviamente di farti compagnia a Coxo, di fare Pasquini. Esatto. Ti chiamerai Roberta W. Giallo per un mese. Roberta W. Giallo, sì, oppure porto anche Robiello, insomma il mio alter ego, adesso vedremo insomma se porto anche una terza persona o se vengo da sola, sai che a forza di fare Dark of the Music, in cui ognuno di noi interpreta vari personaggi, sto diventando plurischizofrenica, capito? E quindi vediamo se verrò solo in compagnia, insomma, ecco. Ma adesso sei lì alle prove oppure avete già finito? Allora, in realtà, ad essere sinceri al 200%, sto finendo l'editing di un videino di insomma che andrà in onda domani durante la chiamiamola la puntata serata, ecco. Poi spero di vederti lì, perché spero un sacco di riuscire a venirci anch'io, perché quel poco che mi hai fatto vedere l'altro giorno mi ha proprio fatto venire una gran voglia, degli spottini carinissimi. Ma tu puoi venire, poi c'è anche insomma c'è anche regalato lo spazio della missione, ti pare che adesso ci sarà un posto speciale per Fedra stasera, anzi chiederò al direttore del teatro insomma, di riservarti un posto. Roberta grazie. Allora intanto ti ricaccio subito all'editing, perché insomma lo spettacolo è domani, e domani alle 21 Teatro del Navile, via Marescalchi, e chissà che non ci ritroviamo, anzi sicuramente ci ritroveremo a parlare con Valeria, perché alla prossima puntata in cui tu sarai la co-conduttrice richiameremo Valeria, che sarà lì a preparare l'evento di cui adesso ci andrà a parlare. Quindi ci ripetiamo. Anzi saluto Valeria con affetto, anche se insomma anch'io ti risaluto, anzi ci conosceremo presto, spero. Esatto, assolutamente. Esatto. È un incontro immaginifico, ma insomma va bene. Beh, va bene, dai, intanto lo facciamo così. E allora vado con lo stacco e ti grazie, saluto. Fedra. Ciao a tutti, ciao. Ho fatto una cosa sincronica, lo stacco al telefono che scendono insieme, pensa un po', perfetta, pensa un po'. Poi, Allora, ritornando a noi, ti rimetto anche lo stacchetto della performance, perché ci sta. È ovvio, bisogna essere professional in tutto. Performance, ricerca, teatro. Comunque Fedra. Performance, ricerca e teatro c'entra col nostro discorso che riprendiamo, perché la tua progettualità, quello che è stato sino a qui articolato in un unico contenitore, adesso si divide. Prende io una biforcazione. Sì, lo voglio dividere lo voglio smembrare in due sezioni. Uno, il Garage Sale, che è tutto il mio progetto artistico, e mi porterò dietro tutti gli artisti che mi sceglierò, che mi ameranno, che mi seguiranno, insomma. Cerco anche di dare la possibilità, visto che ho tantissime conoscenze e ho la possibilità di interagire con tantissimi luoghi che un artista da solo non potrebbe mai arrivarci, ce lo faccio arrivare io. Questo è il progetto Garage Sale ed è il contenitore di idee. L'altro invece è Midnight Tailor, che è il contenitore dell'abbigliamento, insomma della mia linea di abbigliamento, che andrà online, che mi evolverò quando poi il progetto Le Giraffe lo farò morire e lo farò rinascere da con giraffa, la sarta di mezzanotte che è Midnight Tailor. Da giraffa a fenice. Ma sì, io sono in rivoluzione, anche perché diciamo che da 20 anni che ormai ho il negozio delle giraffe, ho l'esigenza, la voglia di fare altro, anche perché bisogna evolversi, non bisogna mai tornare indietro, bisogna sempre guardare in avanti. E il primo passo di questo step evolutivo, che avrà luogo il 7 novembre, è una sorta di enorme contenitore, che è un garage sale che parte a mezzogiorno e finisce a notte inoltrata all'interno di Dinamo, la velostazione in via Indipendenza. Anche perché lo spazio è così imponente, così grande, che ho deciso di incasinarmi la vita totalmente. Quindi è iniziato, all'inizio volevo fare solo la sfilata, poi avendo carta bianca ho collegato i libri, quindi la presentazione dei libri, poi pian piano ho iniziato a metterci dentro cose a livello tipo come se fosse una matrioska, poi ovviamente devi selezionare perché sennò fai casino. Quindi a selezione avvenuta, matrioska riordinata, certo. Cominciamo alle 12 con, andiamo 12 avanti in fine. Punto, diciamo che la velostazione è già aperta dalla mattina, però diciamo che noi con gli espositori saremo pronti alle ore 12. Ci saranno ospiti, parecchie persone che sono menzionate nel libro Made in Bo attraverso il libro di Silvia Santa Chiara e Silvia Gaiane, quindi tanti saranno direttamente visibili lì, alcuni non hanno potuto, alcuni ci stiamo conoscendo, quindi spero che si evolva la cosa, ma non è riferita solo al libro, chiunque si sente creativo, ripeto, si senta libero di contattarmi. Il mezzogiorno inizia l'apertura alle porte, diciamo che tutti gli espositori sono pronti per fare vedere il meglio di se stessi con tutte le loro delizie e la loro arte. Dopodiché, verso il primo pomeriggio, ho scelto le ore 17 per la presentazione dei due libri, che sono quelli che ho menzionato prima, il libro Made in Bo di Silvia Santa Chiara e Silvia Gaiane, dove è praticamente una guida su tutti i creativi bolognesi, e ci sarà un dialogo diretto anche con Simone Maramilli, che è l'altro scrittore che ha scritto La Cura, e vorrei presentarli insieme senza tenerli divise, perché comunque io sono sempre dell'idea che il contenitore fa i contenuti e che il collettivo fa il risultato. Mm. Non sono mai stata autoreferenziale, quindi spero di non esserlo neanche questa volta, quindi voglio che anche i due scrittori che non c'entrano niente tra di loro li metto lì e verranno intervistati da Clinio, che tutti conoscono, e faremo questo dialogo a quattro su come la mente e le mani e la creatività possono curare la persona. Mm. Questo è quello che voglio che succeda. Poi ovviamente interagiremo col pubblico se ci saranno delle domande, e chiunque degli espositori che voglia intervenire e voglio interagire con noi, insomma creiamo una sorta di dialogo alle aperto. Ore 17 per spezzare il discorso dell'esposizione con praticamente i banchetti, fare qualcosa di un po' più dinamico. Mm. Ovviamente sotto ci sarà la bolla sonora di Rigatti Arancomper, che è sempre Clinio, che chi conosce La Notte Vidal, ex Link, sa benissimo chi è, e ci delizierà con questo sottofondo musicale, per poi andare in crescita verso le ore 19, che è orario aperitivo, dove l'Ortica ci delizierà con delle buonissime birre artigianali. Quindi comunque tutto è di alta qualità e tutto scelto ad hoc, perché niente deve essere, dal mio punto di vista, lasciato al caso, almeno per come lavoro io. Allora 19, quindi speriamo che ci sia un bel aperitivo bello vivace. Dopodiché alle ore 22 inizieranno i DJ set con Maio Salomon del Link, insomma una persona che interagisce con tanti mondi bolognesi. E puntuali, precisi, precisoni sul secondo alle 23.45. Vi dico anche perché ho scelto 23.45, perché Minnie Taylor, che è il progetto mio d'abbigliamento, quindi vedete, adesso vi spiego perché sto smembrando in due i miei due progetti, ho bisogno di una prefazione di ben 16 minuti perché devo entrare nel mood della sarta di mezzanotte. Comunque la prefazione verrà fatta da Enzo Savini, che è un mio caro amico ma è un grande artista, ed è il writer che mi ha dipinto tutto il negozio. Chiunque sia entrato in negozio da me, è stato un lavoro fatto nel 2014, il giorno del mio compleanno, dove io ho raccontato la storia della giraffa. Abbiamo fatto un 12 ore di pittura e racconto all'interno di questo evento, che dopo si è trasformato in un casino biatomico e dove Enzo praticamente ha disegnato a ruota libera questa storia della giraffa, che poi Enzo è lo stesso che ha fatto, per chi non lo sa, Enzo Savini, Giardini del Guasto insieme a Blu. Quindi motivo in più per passare a trovare con un nuovo occhio esatto. Valeria nel suo atelier. Ci tengo perché è delle Moline. Così bello, grazie a Enzo. Però oltre a questa prefazione narrata, e poi non vi posso svelare altro, ci sarà una chicca aerea anche con le Luna Chic, che sono queste ragazze che scenderanno dal cielo, diciamo, queste ballerine che fluttueranno nell'aria, perché comunque io ho deciso che lo spazio sarà dinamico, quindi visto che a priori ho deciso di incasinarmi la vita in tutto, non ho voluto niente di dinamico, quindi ogni cosa che ci sarà si sposterà, comparirà e scomparirà, però okay. Non vi svelo niente. Infatti adesso abbiamo avuto questa introduzione, per informazioni più precise, link e contatti rimandiamo da domani alla pagina al blog del Coxo su www.coxospaziale.blogspot.com, troverete tutti i link per andare a raggiungere le fonti dirette, e per il momento, mentre mi collego per l'ultima menzione, un breve brano. Precisa saber da piscina, da margarina, da Carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Precisa tomar sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Precisa aprender inglês. Precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais. Sei. Comigo vai tudo azul. Contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade da América do Sul. Da América do Sul. Você precisa. Você precisa. Não sei. Leia na minha camisa. Che bella canzoncina romantica, eh? Aspetta, ma c'era un'altra cosa prima di alzare il volume dei microfoni. E c'era di nuovo. Non lo trovo più. Vabbè. Ti sei persa, Fede? Mi son persa il jingle. Eccolo qua. L'angolo della menzione. Sì, mi sono un po' persa. Che qua con tutte queste telefoniche. E allora ritorniamo al lunedì 2 novembre, ore 21, Guerra Nostra all'Oratorio Filippo Neri, in occasione dell'ottava edizione di Archivio Aperto 2015, rassegna creata da Home Movies. La pellicola sarà presentata al pubblico con sonorizzazione dal vivo. Valeria, tu conosci Home Movies? No, sinceramente. E allora abbiamo in linea qualcuno, Lucia Tralli, che è già stata ospite di Coxo Spaziale nella versione del venerdì notte, e che ci può dire qualche cosa di Home Movies, perché ne fa parte, e anche di questo evento, vero Lucia? Direi di sì. Eccola! Ciao Lucia. Ciao. Benvenuta alla 115esima puntata di Coxo Spaziale. Purtroppo, come sai, le menzioni sono un pochino uno spazio minoritario rispetto un po' asciutto, e quindi non avrò il tempo di chiederti tutto quello che vorrei sapere su Home Movies, però vorrò sicuramente invitarvi qui in trasmissione, ci sto provando da un anno, nessuno mi dà retta, ma io insisto. Noi ci siamo, quando si riesce ci veniamo. Invece, allora, quindi, intanto come sta andando Archivio Aperto? Molto bene, siamo molto soddisfatti, però ancora ci sono tanti eventi, per cui aspettiamo ancora un sacco di pubblico. Perché è partito, se non sbaglio, il 22 e va avanti fino al 5, giusto? Sì, continuiamo fino al 5 dicembre. Ah, 5 dicembre, ma allora... Quasi 2 mesi di programmazione. Cavoli, è veramente appena partito. Complimenti, sì. Un tour de force, quindi per fortuna che vi becco all'inizio che sarete stremati alla fine. Ma anche adesso già qualcuno ha ceduto, però ecco, sì, è una maratona. Allora, Home Movies è una sorta di archivio di film casalinghi, giusto? Come lo possiamo dire? Sì, film amatoriali e familiari, ecco. In formato ridotto. Lei l'ha detto meglio. I film girati nei 4 formati ridotti, 9,5, 16 mm, 8 mm e Super 8. Quindi questo Guerra Nostra, che verrà proiettato all'oratorio e sarà sonorizzato dal vivo, fa sempre parte di questa collezione. Esatto, Guerra Nostra in realtà è un po' particolare perché è un film di edizione, quindi è un film, diciamo, commerciale che era stato ridotto in 9,5, quindi in formato Pathé Baby, per essere distribuito nelle case degli italiani e celebrare la Prima Guerra Mondiale. Interessantissimo. È stato ritrovato in un fondo dell'archivio. Ma a me ricorda un pochino quel cartaceo che un mogol della televisione, nonché poi politico italiano, ha mandato a tutta Italia con la storia della sua vita. Non so se non c'entra, non è una cosa analoga, vero? Non è pura propaganda. No, non è pura propaganda, però in realtà è appunto un documento storico, venne fatto all'inizio, diciamo, dell'ascesa del fascismo per in un certo senso appropriarsi della Prima Guerra Mondiale in chiave propagandistica, quindi sì, chiaramente noi lo rileggiamo con gli occhi di oggi. E la sonorizzazione di che cosa si tratterà? La sonorizzazione viene fatta dal vivo da Roberto Pacidalò, che è un'artista che ha già collaborato molte volte, in realtà molte altre volte con noi, e siamo molto felici di poterlo appunto sentire in questa sonorizzazione che ha creato appositamente per Guerra Nostra. Meraviglioso. Fra l'altro, pensati che è stato uno dei miei formatori nel progetto radiofonico di Pablo Ilguera, con il quale ho cominciato a fare radio. Perfetto. Sì, quindi allora ti aspettiamo. Ah beh, volentierissimo, ma io non manco a nulla di quello di cui parlo, ci sono sempre con il cuore, quantomeno. E allora vi auguro. Poi c'è un'altra cosa, che c'è un certo Paolo Simoni che è sempre con te nell'associazione, che ci tiene tantissimo, ma anche Mirko Santi, tutti voi. Questo bando Che Fare, com'è che si fa a votarvi? Allora, il bando Che Fare è un bando per progetti culturali a cui noi teniamo moltissimo e che sta per finire, e finisce il 5 novembre, quindi c'è ancora un po' di tempo per votarci. Basta andare online sul sito di Che Fare e appunto regalarci un voto, che è gratuito e velocissimo, ma che per noi è molto importante perché ci permetterà, in caso vincessimo, di creare un database online per mettere realmente accessibile tutto il nostro materiale. Che è veramente tanto, perché voi siete attivi da veramente molti anni, una decina ormai. Sì. Sì, anche di più, quindi stiamo parlando di più di 5.000 ore di materiale. E allora, che potrebbero essere accessibili. Per il momento complimenti e buon lavoro, e ci risentiamo sicuramente qui al Coxo, e spero anche di avervi ospiti prossimamente entro la fine di Archivio Aperto, anche un po' per fare una somma di questa 8ª edizione. Molto piacere. Ciao Lucia, è stato un piacere risentirti, buon lavoro, salutami anche gli altri. Ciao Lucia. Eccoci. Vedi, qualcosa si muove, dai. Ah, ma sembra, se ne una città morta, però dai, qualcosa se ne muovono tantissime a Bologna, anche troppe. Si muoveva più un tempo fa, adesso diciamo che si muovono tante situazioni, però insomma, bisognerebbe concretizzare con più qualità e meno quantità. Sì, ma il problema è sempre quello della chiusura a monade, no? Del non riuscire ad integrarsi a livello cittadino in modo da essere copresenti e da cambiare realmente la qualità. Beh, è un discorso troppo ampio da fare adesso, comunque. Adesso che mancano due minuti. No, nel senso che comunque bisogna pensare al collettivo. Se uno già ha la mentalità per il collettivo, non per l'individualismo, ha già vinto, perché comunque l'unione fa sempre la forza, come tutti i movimenti sono nati. E per te probabilmente è più facile perché hai avuto la formazione all'estero, dove queste cose sono più praticate. Sì, ma no, io ho avuto, diciamo, il culo di essere stata sempre nel posto giusto. Nell'89 ero in California al momento del grunge, nel 92 sono venuta qua quando hanno iniziato i centri sociali e tutto il resto. Io quando ho aperto il negozio sono esplosa per forza, ero già del link, quindi però non è quello, bisogna comunque cavalcare le onde e lasciare spazio ai giovani, come ad esempio per i 45 minuti della sfilata io farò suonare, ma non perché denigro altri DJ, però due ragazzi giovanissimi che suonano con l'iPad e con la drum machine, perché comunque la tecnologia fa parte del progresso e non è che ti puoi esimere dalla tecnologia. Quindi io sono sempre a passo coi tempi e in sfilata suoneranno gli Isomer, che sono due ragazzi giovanissimi, oltretutto che non fanno nessuna facoltà artistica ma fanno farmacia, quindi comunque vedi, abbiamo due farmacisti DJ bravissimi, però comunque fa sempre parte della matriosca. Se tu sei brava ad assemblare come una buona torta, io non so cucinare, so fare altro, so mettere insieme le persone, però non so cuocere un uovo fritto, quindi so fare altro. Vediamo cosa succede il 7 io ci ho puntato tantissimo, invito tutti. E poi comunque invito a partecipare, perché è un segnale. Se il comune ha dato un'apertura di questo tipo, questa apertura ce la dobbiamo prendere, giusto? Giustissimo. E allora, per la 115ª puntata, sono contentissima di avere avuto come ospite finalmente Valeria delle Giraffe, Valeria Sacenti e Valeria del Midnight Taylor, Valeria del Garage Sale, sì, le mille Valerie. In casino e divento il doppio, il triplo, così proprio non ne potete più di me perché mi sdoppio. Però ricordatevi che il Garage Sale, questo è il numero uno, è la sessione pilota, perché dopo io mi ripeterò. È già pronta la sessione due, già un programma. Certo, darò la possibilità a tutti i performer di Bologna per Arte Fiera. Ma di questo ci racconteremo più avanti e ci sentiamo la settimana prossima. Grazie Fedra, grazie a tutti. Ma grazie a te. Io adesso devo fare una roba un po' incrociata, ma ciao. Ciao.